Buonasera, Radio Città del Capo, 451 frammenti sonori con Max Macchia ed Eliseo Scarpa. Beh, dai, pensavo peggio come apertura, perché Eliseo l'ho quasi trascinato in radio e sul serio malconcio questa sera. Sì, però ce la facciamo, reggiamo. Quando si può si tiene botta, come si dice. Ecco, speriamo di riuscire a reggere tutta la puntata con la voce, non avere qualche rigurgito di catarro o praticamente degli starnuti in diretta. Il problema fondamentalmente, purtroppo, è che rischio di impestare tutta la radio. Beh, vabbè, però, ma quello non ti preoccupare, andiamo oltre, insomma, sì, siamo oltre. Sono degli anticorpi, è tutto un anticorpo questa radio. Questa radio poi, come lo chiamano molti qua, l'acquario. Ah, è vero, l'acquario. L'acquario qua è tutto pieno di pesci anticorpi, sì, mutazione genetica. Che fanno da anticorpi a tutti i radiofonici. E siamo solo a cos'è, 10, 9, 9 di giugno. Ma io sto sentendo, forse perché sono malato, ma sto già sentendo un caldo allucinante. Ma è caldo allucinante perché gli strumenti, la strumentazione. Comunque andiamo a bomba sulla trasmissione di stasera. È una trasmissione che abbiamo pensato e macinato per tutta la settimana. Vabbè, non esageriamo, però in parte è anche vero. Per cercare soprattutto di costruire una puntata insieme, io il buon Max, dato che è il buon Eliseo, così non dici che dico sempre che sei il buon Max, i due buoni conduttori, perché per un paio di puntate sarò presente da solo, sperando che non mi venga giù una pietra o che non mi venga qualche altra cosa, che quest'anno sta andando un po' così. E per cui, insomma, volevamo costruire una trasmissione che possa essere stimolante sia per noi, speriamo anche per gli ascoltatori, perché ci segue, e abbiamo pensato di costruire un titolo che l'abbiamo voluto denominare così, 451 altre elettroniche. Altre elettroniche è un'idea appunto che ci è venuta per mettere in campo degli autori, dei musicisti, dei compositori della scena elettronica, partendo anche dalle sperimentazioni degli anni 60-70, se non anche delle precursioni anni 50 di musica elettronica, soprattutto legata alle sperimentazioni di matrice, ma non solo, contemporanea, per arrivare anche a delle cose più recenti di elettronica, ma trattando delle terre geografiche, geograficamente date, culturalmente differenti rispetto al mainstream, anche se è un po' difficile definire mainstream il territorio di 451, però autori che difficilmente andiamo a scovare o inserire dentro delle programmazioni radiofoniche. Dunque, soprattutto autori, musicisti di oltre cortina, così una volta si definiva, dunque dei paesi dell'est, dalla Polonia alla Russia, alla Jugoslavia, alla Romania, alla Cecoslovacchia, che anche quella non c'è più perché Repubblica Ceca e Slovacchia, e per arrivare poi addirittura in un altro continente come Sud America e scovare altri autori, e arrivando anche in terre scandinave, che non è che non ci capitano musicisti scandinavi, però un autore storico degli anni 60-70 è già più difficile andarlo a recuperare. Per cui questa è l'idea un po' di partenza, un'altra elettronica costruita su questo territorio geograficamente così pensato, ma in realtà anche oltre l'aspetto squisitamente territoriale. Sì, perché se pensiamo, insomma, ai tre grandi centri che dove è nata di fatto l'elettronica, ovvero Parigi, Colonia e Milano, perché anche lo studio fonologico di Milano, dove lavorarono i grandi Bruno Maderna e Luciano Berio e tanti altri, e di fatto ci sono stati tanti altri studi importanti, poi vabbè il Tape Center America, ma diciamo, citando anche, insomma, questi quattro, potremmo, insomma, sì, allargarci al Giappone, che già tecnologicamente era piuttosto avanzato, e in altri paesi di fatto non erano centrali rispetto alle ricerche elettroniche, soprattutto le ricerche che stava compiendo appunto in Stockhausen, in Colonia, e a Parigi chiaramente Schaeffer, Pierre Henry e tutti i concretisti, e a Milano appunto abbiamo citato i due grandi, Berio Maderna, c'era un'internazionale, potremmo dire, elettronica, ad esempio uno degli studi non tanto conosciuti, questa sera metteremo anche qualcosa in questione, Radio Studio Warsaw, passarono anche questi grandi che abbiamo citato, quindi anche studi limitrofi poi ebbero come dire un certo riscontro anche in termini di quella cultura, a certi versi anche controcultura, che stava nascendo appunto sulle sperimentazioni elettroniche. Andiamo a prendere, rimanendo proprio in Italia paradossalmente, ma non con musicisti elettronici italiani, ma un musicista che proviene dalla Jugoslavia, Zagabria, la sua città d'origine, ed ebbe modo nel 1975 di uscire per un'etichetta strepitosa, amatissima da noi. Strano che non interviene Eliseo, Per la Cramps, sì, sì, no, stavo guardando perché effettivamente questo lavoro, senza saperlo, ce l'avevo da un po', eh. Ah, li conoscevi, sì, già. Sì, sì, sì, sì. Adesso mi sono... guardando la copertina, sì. Sì, perché comunque la famosa... Famosa si fa per dire, insomma, sezione della Cramps, che si occupava di musica contemporanea e aveva questa grande capacità anche di veramente sorpassare anche confini che erano soltanto sconfinabili da Stockhausen, da grandi che avevano il visto, insomma, in maniera molto più semplice rispetto invece al giro Cramps, che invece comunque ebbe modo di mettersi in contatto con Martin Davorin Jagodic, appunto slavo, che questo lavoro chiamato Tempo Furioso A e B, come all'epoca si usava appunto lato A e lato B, lo porta dentro quel territorio sia concretista, sia quel collage poi anche molto ben sviluppato nell'Europa dell'Est, se pensiamo a un grande capolavoro come quello di Milan Gnizak, proprio una, tra l'altro, un'idea concettuale incredibile, perché oltre che il collage musicale c'era anche il collage dei materiali, quindi tutto l'Est ha avuto questa grossa caratura rispetto al collagismo e anche una sorta di animazione, se pensiamo al post surrealismo di grandi personaggi che hanno fatto dell'animazione, come Borowitz, qualcosa di assolutamente eccezionale. Non mi viene in mente quello che lavorava con la plastilina. Ah, ho capito, anche a me. Adesso dopo ve lo diremo, troppo, che sì. Tra l'altro ho anche contatti con il mondo della musica per tanti versi. Comunque sì. Ci andiamo a sentire appunto Tempo Furioso, meraviglia presa dal 1975 appunto da Jagodic. Sì, I'm here, sì. Susa Zahl 29. Ich wiederhole 12, 22, 26, 27, 40, 41. Susa Zahl 29. Die Olympiagewinnzahl lautet 8187. 8187. Diese Durchsagen sind ohne Gewähr. Soweit die Nachrichten. Es war 23.06. 4, 2, 3, 4. 23.10 Uhr, das war die Sportinformation. Passengers, fly 5037, immediate boarding gate 22. 8187. Diese Durchsagen sind ohne Gewähr. Soweit ist die Nachricht. Und es war 23:04. 4, 2, 3. Das heißt also ohne irgendeinen Namen von Fosmos verlassen. 23:10, das war die Sprachinformation. Was meine Sprache bedeuten, die Grenze meiner Welt. Diese und überhaupt keine Ordnung mehr ist eine wir wünschen, die Welt ist es und die gehen für die Gnade in den Martin Darovin, Jagodic, jugoslavo, e portava insomma un suo modo di intendere il collagismo, un suono comunque astratto che si va a perdere appunto in un grande immaginario sonico. Collaborò poi anche con Cage, altro grande insomma protagonista del collage sonore di musiche che evidentemente si facevano giocose o astrattamente aleatorie e quant'altro, insomma, si potrebbe dire su Cage. Tanto magari vi rimandiamo anche al blog e a una trasmissione che abbiamo dedicato appunto al grande compositore americano e anche a forse a una delle sue più grandi invenzioni, il silenzio, paradossale. E dopo appunto Jagodic e anche la collaborazione appunto con Cage si avvicinerà, come molti poi tra l'altro musicisti elettronici dell'est, alla Francia, alla INA GRM, e perché appunto il collagismo poi usciva anche da quella dialettica suono concreto e composizione e poi di introstrutture più ampio respiro rispetto ai primi esperimenti cacofonici di Schaffer, che si rifacevano direttamente a Risveglio di città di Russolo. Di fatto immediatamente sia lui che Henry si dichiararono russoloniani, addirittura cercarono anche proprio di riprodurre la strumentazione e strutturando quindi quello che era anche un'idea del mixer, perché appunto mixando i vari rumori naturali uscì poi anche la tecnica del collage, che già per molti aspetti deriva dall'avanguardia dadaista, quindi una fioritura dentro tutto il Novecento che ha espresso insomma con Jagodic e con anche altri personaggi. Questa sera metteremo dell'est, veramente una tappa molto importante in quello che poi musicalmente è arrivato fino a certo industrial, se pensiamo a Nars Wittwund, a certo anche fateci passare la cosa anche se sembra una forzatura, a certo hip hop, a certo cut up dell'hip hop, che chiaramente passa da Baroque, ma Baroque d'altronde proveniva anch'egli dalla cultura post surrealista, quindi insomma volendo, facendo una forzatura, potremmo anche far rientrare e appunto parlare di una sorta di internazionalismo legato insomma a un percorso avanguardistico che stasera appunto tracceremo soprattutto nell'est Europa e nel Sud America. E appunto parlando di est Europa, e andiamo a pescare un splendido lavoro, che è soprattutto un lavoro storico, come tanti che sono capitati, sono passati in 451, soprattutto per quanto riguarda i paesi occidentali o ad esempio raccolte di musica sperimentale elettronica in terra di Giappone. In questo caso una cosa simile è stata costruita in Russia, l'attuale Russia, nel 1999, una sorta di archivio delle sperimentazioni elettroniche e non solo in ambito del periodo sovietico, dal 1964 al 1971, che è stato oltretutto uno dei periodi più aperti, dove anche la sperimentazione nell'ex Unione Sovietica riusciva ad avere molti più ambiti, come gran parte anche dell'arte, in una fase sicuramente meno chiusa dell'epoca sovietica, 64-71 appunto. Il lavoro e questo vero e proprio archivio storico musicale si intitola Archive Tapes Synthesizer Hans 1964-1971, uscito per la Electroshock Records, e appunto trova all'interno vari autori, tra alcuni molto famosi come Artemiev, che poi andremo... Famoso indirettamente. Sì, per noi, scusa il termine, hai ragione. Ma sai... No, beh, per certi versi è anche molto famoso perché è stato soprattutto la colonna sonora di un capolavoro come Solaris, che molti hanno visto, non tantissimi ma molti. E comunque sì, mi è scappato questo quasi colloquiale famoso Artemiev. Poi altri autori come Schittke, Nemtin, Kalosh, Krejci, e questo autore di cui si sa molto poco, Oleg Buloshkin, che apre poi l'intero lavoro di compilazione con il brano Sacrament, un brano splendido dove la apertura spaziale con delle note comunque anche malinconiche che ritroveremo molto nei musicisti russi e nei musicisti dell'est che incontreremo questa sera, un'atmosfera sicuramente particolare che ricorda sicuramente molte colonne sonore di film di fantascienza del periodo proprio 60-70, però qualcosa in più, qualcosa di molto più profondo, molto più intimista, che emerge in maniera forte in un brano tutto sommato anche corto ma estremamente intenso. Ce l'andiamo a sentire dunque, aprendo dunque una parte di questa puntata dedicata proprio a questa compilazione, aprendola con Oleg Buloshkin. Thank you. da Oleg Buloshkin, Edvard Artemiev e Grichi, e Stanislav Grichi, e due storicissimi dell'Unione Sovietica elettronica, e come appunto diceva prima Eliseo, proprio in un periodo tutto sommato, insomma, anche piuttosto florido in termini artistici e musicali, quello appunto tra la metà degli anni 60 e i primi anni 70, poi tornerà insomma un certo buio con Brezhnev, che forse è stato il presidente più grigio che si ricordi la storia dell'umanità, insomma, e con Khrushchev, insomma, ci fu il periodo della destalinizzazione, andò tutto un po' così in fumo. Beh, poi si potrebbero fare tanti discorsi anche sui vari partiti comunisti nel mondo, anche magari quello italiano, che appoggiava insomma a spada tratta l'Unione Sovietica. Ma qua apriremo accordi, delle parentesi, quadre, sì, graffe, no, abbiamo un presidente adesso si permettono di dire il comunismo era sbagliato, poi andavano contro gli studenti che invece magari parlavano di tutt'altra faccenda, magari riprendendo Marx e non i casermoni e infami che furono insomma deviazionismi poi appunto di un'idea libertaria marxiana. Ma tant'è, insomma, che comunque ci furono anche dei momenti appunto come dire, dove si riusciva anche a intrufolare qualcosa di forse di iniziale rispetto insomma al lavoro rivoluzionario fatto appunto nei primi anni 10, l'avanguardia insomma futurista in primo luogo russe, e dentro appunto questo studio meraviglioso di Mosca lavorava sia Artemiev che Stanislav Grechi, e tra l'altro inventore dell'ANS, un synth anche piuttosto utilizzato, che ha dato anche il nome alla compilation. E concludendo la prima parte di 451, sempre con un russo, sempre un loro figlioccio, perché usa l'ANS, e poi tra l'altro, oltre che usare l'ANS, la faccenda particolare che stampa per Electroshock Record, che è legato a doppio filo sia con Artemiev che con Stanislav Grechi, proprio per continuità storica, anche perché l'Electroshock Record anche pubblicato l'ultimo lavoro di Stanislav Grechi, proprio dedicato all'ANS, che si chiama Ancian, il nuovo personaggio giovane che doveva prendere appunto dalla Russia, dialettica comunque tra vecchio e nuovo, e Antanasia Zenka, che ce lo andiamo subito a sentire perché sennò non ce la facciamo ascoltarlo. Dunque ci risentiamo dopo il GR di Radio Popolare Network per entrare nella seconda parte di 451 Altre Elettroniche. Yazenka.